Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono convinto comunque che la maggioranza voterà compatta perché, diciamocelo con chiarezza, il ministro della giustizia è il nostro capodelegazione, il ministro della giustizia è un ministro importante e se qualcuno della maggioranza ritiene di votare la sfiducia al ministro Bonafede, ovviamente è come se votassero la sfiducia al governo. E questo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è il rischio che corre l'attuale governo giallorosso, quello che ha appena detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Crimi, in vista del voto di sfiducia che si vota domani contro il ministro della giustizia Bonafede. È una mozione che è stata presentata dal centrodestra e anche dal partito di Emma Bonino Più Europa per tutta la polemica, vi ricordate la bufera di giorni scorsi sui boss scarcerati, le dimissioni del capo del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria eccetera eccetera. Quindi domani si vota questa mozione di sfiducia e da più parti si dice, ma è anche comprensibile insomma, che se dovesse cadere il ministro della giustizia, che non è un ministro qualunque, potrebbe entrare in crisi tutto il governo. E c'è Italia Viva, che fa parte della maggioranza, della coalizione del governo, e che però minaccia di votare la sfiducia a Bonafede. Quindi tutto in bilico, suspense, ne parleremo lungamente, così anche come torneremo sulle regole da rispettare in questa tappa 2 della fase 2 delle riaperture. Anche perché ci sono, poco fa ho visto il sindaco di Palermo, Luca Orlando, così come anche il presidente della regione Sicilia, Musumeci, che erano molto irritati per la movida palermitana, la vuciria, giustamente, no? Si continua a dire non bisogna abbassare la guardia e poi basta poco e tutti che si assembrano. Quindi torneremo anche su questo e poi capiremo anche al vertice in Europa sulle misure da adottare per risollevare l'economia europea, che decisioni si stanno concretamente prendendo. Quindi poi per i vostri commenti lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure pagina, scusate, SMS e WhatsApp al numero che è sempre il solito 349-238-6666, 349-238-6666, poi c'è il Twitter durante il giorno che è Roby con la Y linetta bassa Giordano. I dati aggiornati sul Covid-19 in Italia, nuovi casi in aumento, sono 162 i morti, i ricoverati scendono sotto quota 10.000. Riaperture, bene l'abbigliamento, più lenta la ristorazione, in crescita i prezzi, centri estivi al via dal 15 giugno. Il Viminale ricorda, niente assembramenti anche nei parchi. Il piano di rilancio europeo, i paesi del nord frenano la proposta franco-tedesca da 500 miliardi, telefonata tra Conte e Macron. Politica, domani il voto di sfiducia al ministro Bonafede, se passa il governo rischia la crisi, dicono PD e 5 Stelle a Renzi, tentato di votare sì. Lo sport italiano, il ministro Spadafora annuncia, il 28 maggio decideremo sulla ripartenza del campionato di Serie A. Partiamo quindi, come sempre, dai dati aggiornati dalla Protezione Civile sull'epidemia di coronavirus in Italia. Sono 226.699 i contagi totali nel nostro paese dall'inizio, quindi 813 più di ieri. Di questi oltre il 50% in Lombardia, che ne fa registrare 462 di contagi nuovi. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti, quello di 226.699. Da notare però che i tamponi effettuati sono circa il doppio di ieri. E poi sono 162 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro paese. In totale i morti, quindi dall'inizio, salgono a 32.169 e sono saliti a 129.401 i guariti e dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.075. In generale i numeri, che sembrerebbero quindi sotto controllo, è ottimista il presidente del Consiglio Conte. Il sacrificio degli italiani ha dato frutti. L'Italia è stato uno dei primi e dei più colpiti paesi dalla pandemia, ma dopo due mesi di lockdown i risultati sono incoraggianti. A tracciare il bilancio davanti all'Assemblea della Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Let's face it, we were not entirely prepared for such. Non eravamo preparati per una crisi globale così grande, dice Conte. Ora è necessario rafforzare lo scambio di informazione e i meccanismi di allarme rapido. Va rafforzato, puntualizza Conte, anche il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'affermazione che arriva nel pieno scontro tra Stati Uniti e Cina sull'OMS, accusata dagli statunitensi di eccessiva vicinanza a Pechino nella gestione dell'emergenza Covid. Trump ci sta infangando, replicano i cinesi, e mentre l'Unione Europea si schiera con l'organizzazione, l'OMS vota un'inchiesta indipendente sulla sua azione nella gestione della pandemia, inchiesta da svolgersi però al momento opportuno più prossimo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi dicevamo prima i dati nel secondo giorno di riaperture, con luci e ombre per le tante attività che hanno tirato sulla saracinesca. Bene i negozi di abbigliamento, ancora a rilento la ristorazione, mentre un po' dappertutto si segnalano prezzi in aumento. E ci sono le novità sulle prossime date di ritorno alla normalità. Parliamo degli spostamenti tra regioni che restano confermati, questi spostamenti dal 3 giugno, ma con ulteriori dettagli, e poi i centri estivi e le spiagge. Il 3 giugno riprenderà la mobilità fra regioni, ma solo tra quelle con un rischio medio-basso. Per quelle con un indice di contagio alto resteranno invece le limitazioni. A precisarlo è il ministro per gli affari regionali Boccia. La ministra per le pari opportunità Bonetti fa invece sapere che i centri estivi ripartiranno dal 15 giugno. Il DPCM prevede la possibilità da parte delle regioni eventualmente di anticipare o posticipare questa apertura a seconda dello stato epidemiologico del territorio regionale. La Sardegna intanto riapre le sue spiagge con la possibilità di fare il bagno, ma rispettando il distanziamento sociale anche in acqua. Preoccupato per la ripresa della movida, testimoniata anche da molti video con assembramenti di giovani senza mascherina, il governatore del Veneto Zaia manda invece un avvertimento. Dobbiamo fare in modo di far quadrato e rispettare le regole. In 10 giorni io li vedo i contagi, se aumentano richiuderemo i bar, richiuderemo i ristoranti, richiuderemo le piscine, chiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa col silicone, è questo che vogliamo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per ricordare le regole in vigore dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, nel corso di questa puntata tornerà qui Effetto Notte, il portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Dicevamo quindi delle riaperture degli esercizi commerciali. Sentiamo com'è andata questa seconda giornata. Oltre il 90% dei negozi di abbigliamento e calzature, secondo Confcommercio, ha riaperto al pubblico, e quasi tutte le gioiellerie. Riapertura quasi totale anche nei negozi di arredamento. Più in difficoltà la ristorazione, con il 30% di bar e ristoranti rimasto chiuso e il 40% dei dipendenti in cassa integrazione. Ma a far discutere è soprattutto l'allarme prezzi, con rincari al bar e dai parrucchieri già segnalati al Codacons. Il segretario di Confesercenti, Mauro Bussoni, ha i nostri microfoni. Secondo me è naturale, perché o uno adegua i prezzi se ha maggiori costi, o altrimenti non va avanti. Allora, in un ristorante dove avevano 80 coperti, se adesso ne possono fare solamente 20 o 30, i costi rimangono gli stessi, i ricavi saranno minori, o si taglia sui dipendenti se si hanno dei dipendenti, o si aumentano i prezzi. Ma riguarda tutti, riguarda anche i parrucchieri. Non dimentichiamoci che passiamo da 3 mesi di inattività in cui tante persone non hanno incassato nulla. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo invece alle misure per l'economia in Europa. Via libera definitivo dell'Ecofin, del gruppo dei ministri dell'economia e delle finanze, allo SURE, lo strumento temporaneo per aiutare la cassa integrazione dei paesi europei durante la crisi. Fornirà agli stati membri fino a 100 miliardi di prestiti. Sarà attivo per tutto il 2022, ma è sul nuovo pacchetto europeo che è per la ripresa che si sta consumando un nuovo scontro a livello continentale, e di questo torneremo a parlare tra poco in modo più approfondito. Il BTP Italia anti-Covid ha raccolto altri 4,7 miliardi di euro di sottoscrizioni nel secondo giorno di offerta ai piccoli risparmiatori, superando i 4 miliardi di euro raccolti al debutto. Dopo 2 giorni il BTP Italia, che verrà offerto ancora domani ai piccoli risparmiatori e giovedì agli investitori istituzionali, ha totalizzato oltre 8 miliardi di euro. Siamo ora alla politica, domani test di tenuta della maggioranza sul caso Bonafede, mentre le opposizioni confermano la manifestazione unitaria del 2 giugno contro il decreto di rilancio, e tra poco ci sarà lo spazio poi per i temi della politica italiana. Siamo adesso all'estero con il punto sui contagi nel mondo. Europa alle prese con la fase 2, ma il Sud America è nel pieno dell'epidemia. Una forte progressione della pandemia in Brasile spinge avanti i contagi in America Latina, che conta ora oltre 500.000 di casi per più di 30.000 morti, la metà dei quali in Brasile. La mappa globale del virus registra 4.800.000 casi nel mondo, con quasi 320.000 morti. Primo paese gli Stati Uniti, 1.500.000 di casi, 90.000 vittime. Cresce il bilancio anche in India, superati 100.000 casi, oltre 3.000 i decessi. In cima alla lista dei paesi europei per numero di vittime il Regno Unito, 35.000. Torna sotto i riflettori intanto la bassa mortalità in Russia, meno di 3.000 morti per 300.000 casi. A insospettire il dato indipendente di medici e infermieri che hanno perso la vita, un numero simile a quello di Regno Unito, Italia o Spagna, dove le vittime ufficiali sono 10 volte tanto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è svolta presso la Procura per la sicurezza dello Stato egiziana al Cairo, di nuovo a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus, la prevista udienza sul prolungamento della custodia cautelare per Patrick George Zaki, ricordate, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, da oltre 3 mesi in carcere al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, segnalando che l'esito dell'udienza verrà comunicato forse sabato, che però questa settimana cade nel pieno di un lungo ponte festivo per la fine del Ramadan. Di nuovo in Italia con la cronaca, è domiciliare il procuratore capo di Taranto Capristo, già alla guida del PM di Trani per ordinanza del GIP di Potenza. Capristo, ora accusato di corruzione in atti giudiziari e tentata truffa allo Stato, era già stato indagato nell'affare sul falso complotto ENI. Respingo tutto, si difende, ecco che cosa emerge però dagli atti. C'era il maestro, così come era chiamato il procuratore Carlo Maria Capristo. C'erano i fedelissimi, a cominciare da un poliziotto, c'erano amicizie in sfere istituzionali e c'era, scrive il GIP, un contesto ambientale di interessi personali e di svendita delle funzioni. Parte dalle pressioni su una giovane toga perché alterasse le sue indagini, l'inchiesta che sfocia nei domiciliari al procuratore di Taranto insieme ad altre 4 persone e all'iscrizione nel registro degli indagati anche di Antonio Di Maio, che lo aveva sostituito alla guida dei PM di Trani. Il tentativo fu quello di far processare per usura un malcapitato imprenditore innocente, solo perché chi lo aveva denunciato potesse così avere accesso ai fondi per le vittime di questo reato. Capristo pensava di poter esercitare la sua influenza sulla bambina, come chiamava la giovane PM di Trani, anche minacciando ripercussioni sul marito, Toga Tarantino. Ma lei, il PM Silvia Curioni, ha invece denunciato la trappola, facendo arrestare il procuratore e facendo scoprire un nuovo tassello di quello che fu ribattezzato il sistema Trani, che aveva già portato all'arresto di altre 2 toghe. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Maltempo, una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale, porterà nelle prossime ore piogge e temporali su gran parte dell'Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede, a partire dalla serata di oggi, precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sull'Emilia-Romagna. Piogge temporali interesseranno dalle prossime ore, dalle ore di domani, anche Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani un'allerta arancione in Basilicata. Per chiudere, lo sport. Spadafora, il ministro dello sport, ha detto: il comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra dei club di calcio. Lo ha detto ospite a TG Sport su Rai 2, precisando che tra le variazioni c'è quella dei ritiri non più necessari il 28 maggio, poi ha detto decideremo sulla ripartenza del campionato. Ci sarà quindi anche spazio per lo sport e per le indicazioni sulle riaperture delle palestre. Tutto questo a cominciare da tra poco, quando ci saranno i vari ospiti per approfondire i temi. 349-238-6666 è il numero per i vostri commenti tramite SMS e WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Già qualcuno sta scrivendo da Rapallo, dalla Sicilia e poi dal Friuli Venezia Giulia, mi sembra, assembramenti vari, e sembra che la gente abbia già dimenticato tutto quello che abbiamo passato finora. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta della sintesi della giornata in cui riassumo tutte le notizie più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero e poi alcune di queste adesso le approfondiamo come sempre con gli ospiti. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp se li volete commentare, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso cominceremo con la politica, poi parleremo anche appunto delle misure economiche che sono oggetto di trattativa in sede dell'Unione Europea e capiremo oggi che giornata è stata e poi torneremo ancora sulle regole che riguardano questa seconda tappa della fase 2 delle riaperture. Pagina Facebook di Effetto Notte, dicevo, ma adesso passiamo subito alla politica italiana, perché a proposito di riaperture diciamo che la politica italiana ha riaperto con grande vivacità in questi giorni. Il tema che scala la classifica in queste ultime ore degli argomenti che stanno agitando moltissimo il dibattito politico è il voto che domani mattina si terrà per quanto riguarda la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra e anche dal partito di Emma Bonino più Europa nei confronti del ministro della giustizia Bonafede. Qui saluto la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Cara Betta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Allora, ricordo che questa mozione nei confronti del ministro della giustizia Bonafede è scattata dopo la bufera che lo ha investito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, per la scarcerazione e messa domiciliari di diversi boss mafiosi, circa 400, e poi anche per quella polemica con quel piccolo grande retroscena, come vogliamo chiamarlo, con il PM antimafia Nino Di Matteo, che adesso fa parte del Consiglio Superiore della Magistratura, per non essere stato, prima era stato individuato da Bonafede per diventare capo del Dipartimento dell'amministrazione carceraria, poi invece non se n'era più fatto niente. Insomma, diciamo che è da un po' di giorni che Bonafede è un po' nell'occhio del ciclone e domani si vota questo voto di sfiducia. Però che cosa succede? Che da una parte è stato presentato appunto dall'opposizione, quindi dal centrodestra e dal partito di Emma Bonino, però c'è dentro la maggioranza, che sapete è fatta da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva di Renzi e LeU, Liberi Uguali, c'è Italia Viva con Renzi che minaccia di votare la sfiducia, Betta, però dal Movimento 5 Stelle e dal PD avvertono Italia Viva che se dovesse votare, dovesse passare questa sfiducia a un ministro come il ministro della giustizia, che non è un ministro da poco, al di là della persona in sé, ma comunque come peso del ministero, ci può essere chiaramente una crisi di governo. Sentiamo che cosa ha detto Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle. Sono convinto comunque che la maggioranza voterà compatta perché, diciamocelo con chiarezza, il ministro della giustizia è il nostro capo delegazione, il ministro della giustizia è un ministro importante e se qualcuno della maggioranza ritiene di votare la sfiducia al ministro Bonafede, ovviamente è come se votasse una sfiducia al governo. E anche Del Rio, capogruppo del PD alla Camera, ha detto non si pensi che questa cosa passi così come se nulla fosse, chiaramente si apre una crisi di governo. Quindi Salvini, Meloni naturalmente compatti hanno fatto sapere che voteranno la sfiducia visto che l'hanno presentata, sentiamo Tajani di Forza Italia. Non è nostra abitudine farlo, però in questo caso, visto che noi siamo una grande forza garantista, visto che noi crediamo nella giustizia giusta, visto che sono stati commessi molti errori che hanno anche provocato allarme sociale, voteremo entrambe le mozioni di sfiducia, sia quella del centrodestra, sia quella che porta la firma come prima firma, quella di Emma Bonino. E poi dal Movimento 5 Stelle anche D'Incà, che è il ministro per gli affari col Parlamento, che dice sono sicuro che questa mozione di sfiducia sarà largamente respinta. Sono convinto che domani non vi sarà nessun problema, verrà respinta la mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede con un'ampia maggioranza parlamentare, grazie a tutti i gruppi che appunto formano la maggioranza al Senato. Allora Betta, naturalmente ci si aspetta dall'opposizione che faccia l'opposizione, soprattutto su un caso come questo, al di là di quello che si pensi, però torna Renzi e Italia Viva insomma a tenere il governo sul filo. Poco fa è intervenuto anche Fico, presidente della Camera e del Movimento 5 Stelle, che dice chi cerca spallate al governo non ci sta riuscendo. Com'è la questione, Betta? Che cosa cerca Italia Viva? Ma Allora, io intanto a livello di tecnica parlamentare mi concentrerei sulle parole di Tajani. Sì. Lui dice, voteremo la mozione del centrodestra, ma anche quella di Più Europa. Perché? Perché i renziani in realtà non voterebbero la mozione del centrodestra, ma vorrebbero votare quella di Più Europa, quella di Emma Bonino. E se a quel punto il centrodestra vota anche quella, il governo poi effettivamente... cade perché il ministro della giustizia cade. Quello che dicono i 5 Stelle è non può cadere Bonafede, perché Bonafede è anche non solo uno dei leader del Movimento 5 Stelle, non solo il ministro della giustizia, ma attualmente, da quando poi Di Maio ha fatto un passo indietro, è il capo delegazione del Movimento 5 Stelle nel governo. Quindi è una figura essenziale. Quindi c'è questa problematica. È vero pure che Italia Viva ogni volta, diciamo così, la spara grossa e poi si ritira. E qui ci sono poi dei gossip di Montecitorio. Maria Elena Boschi oggi ha visto il premier Giuseppe Conte. Perché l'ha visto? Perché? L'ha visto perché sempre per parlare di questa mozione di sfiducia, sempre perché da una parte c'era Teresa Bellanova che lancia il resta, diceva a Crimi, voi non ci potete minacciare, noi c'è una grande parte d'Italia Viva, che poi questa grande parte d'Italia Viva, ricordo, una minoranza in un paese molto grande, perché Italia Viva rappresenta un 3%, però si vocifera che ci sia un ministero per Maria Elena Boschi, così questo certo, è il gossip. Si vocifera che poi la Boschi è andata a trattare per un posto da sottosegretaria alla giustizia per Gennaro Migliore, che è già stato sottosegretario di Andrea Orlando del PD quando era ministro della giustizia, perché Italia Viva sta facendo la voce grossa perché vuole più poltrone al governo. Questa è un'altra cosa, però mi pare che questa sia stata respinta, quella del sottosegretario, che invece ci sia proprio un ministero per Maria Elena Boschi. Ti risulta dai gossip che tu puoi sentire nelle segrete stanze? Guarda, questo potrebbe essere, quindi vuol dire che ancora di più rilanciano di più. Certo, poi bisogna vedere quale ministero a Maria Elena Boschi, certo non quello della giustizia, però bisogna capire, cioè, poi è andata lei come capodelegazione, lei che era stata accusata dal Movimento 5 Stelle di essere un ministro invischiato con lo scandalo di Banca Etruria per conflitto di interessi, quindi lei ha avuto la gogna mediatica dei 5 Stelle. E lei dice adesso i 5 Stelle hanno la gogna mediatica, no? Cioè quelli che sono giustizialisti alla fine finiscono per essere giustiziati, no? Ecco, e questo è praticamente quello che sta succedendo un po' a Bonafede, cioè l'ala più dura del movimento, più giustizialista, poi alla fine si ritrova un ex PM antimafia che lo accusa di non aver voluto nominarlo al Dipartimento di Polizia Penitenziaria, e quindi al Dipartimento di Giustizia Penitenziaria. Dall'altra parte queste scarcerazioni dei boss fatte molto male per il Covid-19, cioè persone che stanno al 41 bis, sono in isolamento. Quindi il carcere duro, cioè isolato. Se lo prendono loro il Covid, non so chi lo deve prendere, lo prendiamo tutti. Betta, tu non sei stata, capito? Molto isolata, perché ti sento la voce un po' giù, come se tu fossi data un po' la pazza gioia in giro. Comunque, sorvoliamo su questo. No, io sono ritornata a andare col motorino da 2 giorni, ma sempre se per il tempo lavoro. È quello che è, e quindi... subito la voce oggi. È come quando si ritorna, adesso saremo tutti distrutti, no? Perché dopo 2 mesi ci si scatena a casa, ma è come con... la settimana dopo il ritorno delle vacanze che ci si sente stanchissimi. È vero Carabetta, e quindi si ha bisogno, no, non volevo dire di altri lockdown, però l'hanno minacciati alcuni presidenti di regione, di questo però parleremo dopo con altri ospiti. Betta, c'è un'altra cosa. Voglio dirti anche questa cosa, perché adesso abbiamo parlato delle opposizioni, delle due mozioni di sfiducia, di cosa minaccia di fare Italia Viva, però all'interno ancora del governo c'è Marcucci del Partito Democratico che dice: il ministro Bonafede domani può dare un aiuto fortissimo alla maggioranza che lo sostiene. Io credo, ha detto, che le mozioni di sfiducia siano da rigettare, ma per il guardasigilli può essere l'occasione per riequilibrare la politica del suo dicastero, valorizzando il fatto che è ministro di un governo di coalizione. Traduci tu, Betta, che cosa vuol dire Marcucci del PD, come se dicesse allora, a Bonafede. C'è un'altra questione poi, che è la famosa questione della prescrizione. Italia Viva era sempre stata contraria, no, a questo stop to cure della prescrizione. Italia Viva ha fatto delle battaglie contro lo stop se si è condannati dopo il primo grado, no? E quindi c'è anche questo aspetto, per questo poi Bonafede viene preso di mira, perché quello che era più giustizialista poi ha delle ombre oggi, no? Allora, Italia Viva è sempre stata garantista. Ricordiamo che Marcucci, che adesso è capo gruppo del PD al Senato, però è stato sempre un renziano, non ha seguito Renzi nella avventura di Italia Viva, ma probabilmente le idee l'anima sono dice, le stesse, è un quindi po'. Praticamente si chiede un pochino più di garantismo e questo è l'aspetto politico, quindi non c'è un aspetto, diciamo così, di poltrone, ma c'è anche un aspetto di sostanza, di merito, e su questo Italia Viva, bisogna dirlo, è sempre stata più vicina a Forza Italia, più vicina a delle posizioni più garantiste, questa prescrizione con lo stop se si è condannati in primo grado. Ricordiamo, Bonafede a gennaio ha detto entra in vigore dal 6 gennaio lo stop alla prescrizione senza se e senza ma. Oggi, chiaramente, dopo un po' di mesi, lui si ritrova invece processato, tra virgolette, diciamo, in un'aula, certo, democraticamente, politicamente. È chiaro che Bonafede è sempre stata una parte opposta rispetto a quello che sono le norme giuridiche, le riforme, eccetera, rispetto a Italia Viva. Marcucci è sempre diversi punti di vista. Sì, è del PD, ma ha dei punti molto in comune con Italia Viva. Betta, invece, quindi vediamo domani che succede a questo punto, suspense, vedremo che cosa. Senti, ma i numeri, cioè se per esempio Italia Viva votasse per la sfiducia, come sono i numeri allora, del Senato? E qui ci sono sempre questi 17 senatori di Italia Viva che sono fondamentali. L'ago della bilancia. Però, sì, noi sappiamo sempre che, malgrado Tajani abbia detto che Forza Italia addirittura voterà la mozione di sfiducia, e malgrado oggi, ricordiamo, la seconda notizia politica è che il centrodestra finalmente farà una manifestazione. Questo, ma questo stavo passando tra pochissimo. Malgrado questo, noi diciamo che praticamente Forza Italia, da quello che noi sappiamo sempre, ci sono questi famosi responsabili di Forza Italia che non potrebbero sostenere mai il governo andare in crisi modo. Dopo in un momento così cruciale come quello lì che stiamo vivendo con il Covid, eccetera, che potrebbero, diciamo così, essere responsabilizzarsi responsabilmente assenti per far sì che le leggi poi passino. Betta, lo ricordavi per l'appunto che il centrodestra compatto intende scendere in piazza appunto il 2 giugno. Poi parleremo con il dottor Laquaniti, dei funzionari di polizia, che ci dirà che c'è la possibilità di manifestare una manifestazione statica, naturalmente a distanza per le condizioni ancora in cui ci troviamo, col nemico sempre accanto, invisibile. Però ci sarà appunto il 2 giugno questa manifestazione per contro il governo, contro il fatto che il decreto rilancio è ancora atteso secondo il centrodestra, che ancora tante cose devono essere viste poi realizzate nel concreto. Allora sentiamo che cosa dice a questo proposito, cosa ha detto il leader della Lega Salvini. Su richiesta di tantissimi italiani che si sentono dimenticati e vogliono certezze, stiamo lavorando unitariamente per trovarci in piena sicurezza in piazza il 2 giugno a Roma, in tutti i capoluoghi italiani, a distanza, rispettosi, però per aiutare i troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buon senso e meritano fiducia. Non è possibile che il decreto rilancio annunciato settimana scorsa ancora non sia in gazzetta ufficiale e intanto ci sono licenziamenti e casse integrazioni che non arrivano. E sentiamo Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Il 2 giugno insieme come centrodestra vogliamo dare voce al dissenso degli italiani, vogliamo dare voce a un'Italia che non crede più nelle promesse di questo governo, che ancora deve pagare la cassa integrazione, che non ha ancora fatto vedere un euro alle imprese e che intanto pensa a regolarizzare gli immigrati clandestini o a far uscire i boss dal carcere, come è accaduto in queste settimane. Noi vogliamo dire che la pazienza è finita, vogliamo farlo in nome e per conto dei milioni di italiani che vogliono manifestare il loro dissenso, e lo faremo ovviamente rispettando le regole. E poi anche Berlusconi ha detto: il centrodestra è assolutamente unito, anche se ogni sua componente viene da culture, da storie diverse, dimostreremo la nostra unità il 2 giugno con una manifestazione composta di forte valore simbolico a fianco dell'Italia che vuole ripartire. Mentre Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha detto: il 2 giugno è la festa non di parte, esponiamo il tricolore alle finestre per l'Italia e per la sua rinascita, uniti, dice, questo è il modo per ricostruire la fiducia di cui gli italiani hanno bisogno. Betta, quindi si prospetta un 2 giugno caldo. Caldo ma statico, diciamo, rispettoso. Sì, noi ci aspettavamo sempre il 2 giugno in cui il Presidente della Repubblica arriva con la lancia, poi omaggio all'altare della patria, poi c'è la parata, no? Che è proprio una festa, è la festa della Repubblica, la festa quando fu dichiarata la Repubblica e non la monarchia. Adesso che c'è praticamente questa manifestazione, il 2 giugno un po' rubiamo la scena. Rubiamo la scena con delle mascherine, per fortuna lì si potrà dire che se sono 500 persone va benissimo, perché sai che ogni manifestazione i manifestanti dicono che sono 3 milioni, la questura dice che sono 100.000. Quindi in questo caso lì ci devono sarà... essere pochi per questioni di sicurezza. A parte gli scherzi, sì. L'opposizione fa giustamente l'opposizione. Da una parte è vero che il 2 giugno è la festa di tutti, quindi di destra, di sinistra, di centro, di opposizione, di maggioranza. Però voglio dire, non c'è assolutamente nessun problema, siamo una democrazia, è giusto anche ritornare a manifestare. Una cosa ha ragione Salvini: non c'è ancora la bollinatura del decreto rilancio, una bollinatura che deve fare i conti però con quello che è una seconda manovra economica lacrime e sangue, no? Quindi è chiaro che per fare tutti questi conti e per fare questi decreti, che sono molto complicati perché sono delle manovre economiche, ci vuole un po' di tempo. Però è vero pure che dal varo la bollinatura passa anche, insomma, passano quei 2-3 giorni che, sai, poi la gente cerca, ma allora quando mi danno la CIG, quando mi danno quando mi danno i soldi, gli autonomi, no? I 600 euro, quindi sai, anche questo effetto annuncio su e poi l'attesa dici un po' crea insomma, insoddisfazione, ha dei problemi veri, ecco, forse andrebbe evitata, magari andrebbe fatto il varo prima di aver fatto tutte queste operazioni, così la bollinatura e la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, spieghiamo, la bollinatura sono praticamente il timbro poi che c'è del Presidente della Repubblica quando tutti i conti sono fatti e quindi tutto quanto deve quadrare, magari andrebbe fatto prima tutto questo andrebbe fatto prima del varo, in modo tale che subito, appena c'è il varo, viene poi pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Beh, Andrea, insomma, dice il decreto rilancio 55 milioni bonus su bonus, sono passati 7 giorni, non ho visto niente, poi bonus vacanza, quanto si dice, la TV stanno facendo tutti feste, baldoria, si parla di chiusura, eccetera eccetera. Poi invece c'è chi dice, per esempio come Gae, dice: certo, occorre una bella faccia tosta a far cadere un governo che comunque sta facendo tutto il possibile per non far affondare l'Italia. C'è la Correnze, e così anche Christian dice: il momento ideale per una bella crisi, come sempre il marketing politico prevale sulla ricerca del bene collettivo. Rossella dice: al di là delle idee politiche non mi sembra proprio il caso di aprire una crisi in questo momento. Direi che però in questo momento possiamo lasciarci, Betta, perché è scaduto il nostro tempo. Betta, tanto ci ritroviamo nei prossimi giorni, vediamo domani tra l'altro ma che assolutamente succede. E poi sì, diciamo, speriamo che non ci sia una crisi in questo momento, perché sarebbe un male in effetti, e anche poi tutte queste cose del decreto rilancio sarebbero ritardate. Vabbè, tu mettiti la sciarpa quando esci anche d'estate, perché mi sembra che sei molto delicata. No, ritorniamo a uscire però con moderazione, non come i ragazzini prudente che bevono il mojito tutti insieme, eccetera. Poi... il motorino con la mascherina, come ho fatto io, però il mal di gola mi è venuto. Va bene, ciao Betta Fiorito, a ben presto, riguardati. Grazie Betta, adesso ci prendiamo questa pausa come sempre di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai siete sempre al posto giusto, nel momento giusto, se volete, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Allora, abbiamo parlato, abbiamo approfondito insomma gli argomenti in primissimo piano oggi della politica interna italiana, con oggi è il giorno della vigilia del voto domani sulle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della giustizia Bonafede, sulle quali potrebbe, se il voto fosse favorevole, cadere il governo. Lo hanno anticipato Movimento 5 Stelle e PD, dicendo all'alleato Renzi di Italia Viva: stai attento che se passa questo voto va in crisi tutto il governo. Fabio scrive: Betta, a proposito di Betta Fiorito che c'era fino a poco fa qua naturalmente in collegamento con Effetto Notte, buona fede non ha nessuna ombra, quelli di Italia Viva hanno scheletri nell'armadio e non vogliono il blocco della prescrizione. In realtà ognuno poi ha il punto di vista, in realtà su buona fede ha detto sì, ha detto qualche ombra, nel senso che almeno dal punto di vista delle opposizioni e anche di Italia Viva, il fatto che PM Di Matteo abbia detto in quella telefonata, una trasmissione televisiva sulla 7, non mi ha poi più chiamato per il dipartimento dell'amministrazione carceraria, è perché ha avuto le pressioni da parte dei boss. Bonafede ha sempre fortemente negato e respinto queste accuse. Domani poi ci sarà la sua risposta, il suo intervento dopo che sarà presentate queste mozioni di sfiducia. Adesso però passiamo invece, abbiamo parlato poi anche in chiusura del blocco di prima, del fatto che il centrodestra scenderà compatto in piazza il 2 giugno, naturalmente in modo distanziato e statico, manifestazioni statiche di cui parleremo dopo quando riepilogheremo un po' le regole di questa nuova fase. A proposito del decreto rilancio, protesta nei confronti delle misure che il governo sta man mano mettendo a punto per sostenere l'economia italiana. Che cosa invece succede a proposito delle misure, dei provvedimenti a livello di Unione Europea per risollevare l'economia del vecchio continente dopo questa valanga che ha colpito tutti i paesi, però in particolare l'Italia e la Spagna, insomma i paesi in genere un pochino più fragili. Ieri c'è stata questa proposta importante franco-tedesca, un piano da 500 miliardi per salvare l'Europa attaccata dal Covid, però per il momento non sembra che alcuni paesi del nord siano molto propensi, mentre alcune misure forse oggi sono già state avallate. Sergio Nava, caro Sergio, ciao. Sì, ciao Roberta, sì, oggi è arrivato il via libera definitivo all'Ecofin, esatto, della cassa, quella che si chiama Cassa Integrazione Europea, quindi fino a 100 miliardi di euro, dipenderà poi ovviamente da quanto gli Stati membri chiederanno e da quanto sarà concesso, per sostenere proprio queste misure di aiuto ai lavoratori che in questo momento chiaramente non stanno svolgendo un orario di lavoro completo. Sono fino a 100 miliardi, fanno parte del famoso pacchetto da 540 miliardi che comprende anche i prestiti della BEI alle piccole e medie della imprese, della Banca Europea per gli Investimenti, anche, esatto, e anche il famoso MES, Fondo Salva Stati, altri 240 miliardi, di cui 37 potrebbero andare all'Italia, sempre che l'Italia li chieda. Ora, per venire a quello che bolle in pentola, lo ha detto stasera il commissario degli affari economici Gentiloni, altri potenzialmente che tra poco sentiremo, miliardi. Sentiamolo già, esatto. Gentiloni, la proposta della Germania, sì, dice una svolta senza precedenti. Sentiamo Gentiloni. La trattativa si farà naturalmente sulla proposta della Commissione che avremo la settimana prossima. Non credo però si possa sottovalutare quello che è successo ieri, cioè un paese come la Germania che accetta l'idea di 500 miliardi di sovvenzione attraverso un prestito che la Commissione cercherà sui mercati. Credo che sia una svolta senza precedenti. Questo per la svolta, per appunto la proposta franco-tedesca, no, da 500 miliardi, però come dicevi tu quest'altra invece è il pacchetto da 1000 miliardi, sempre per voce di Gentiloni lo spiega, sentiamo. Ieri Francia e Germania hanno parlato di 500 miliardi di sovvenzioni. Siccome il fondo sarà un mix tra sovvenzioni e crediti agevolati, prestiti di lunga durata, vedrete che alla fine non saremo molto lontani da quelle cifre di cui abbiamo parlato, attorno al migliaio di miliardi in queste settimane. Insomma, quindi Sergio, che cosa arriva, qualcosa di concreto e in tempi ragionevoli per aiutare l'economia italiana, oltre che dell'Europa, insomma, noi dobbiamo pensare all'Italia. Allora, per calarlo nel concreto, perché giustamente dobbiamo andare nel concreto, a breve potrebbero arrivare già da giugno i famosi 37 miliardi del MES, sempre che l'Italia li chieda. Ultimamente si è detto, visto li chiediamo queste polemiche sul MES. Io sinceramente non sono così dell'idea di Sì, di sottilizzare, sono, ribadiamolo, prestiti che possono essere rimborsati nell'arco di 10 anni a un tasso di interesse lo 0,1%, insomma è veramente poco. Sono soldi che servono e con poco, sì. Ovviamente, non sottolizzerei in questa fase così complicata della nostra vita e della nostra economia. A breve sempre, comunque diciamo da giugno, potrebbero poi sbloccarsi sia i fondi della BEIP, ma questi sono per le piccole e medie imprese, sia appunto anche la Cassa Integrazione Europea. Mentre per quanto riguarda il discorso che accennava Gentiloni, innanzitutto bisogna aspettare il 27 la proposta complessiva della Commissione Europea. Dalle parole di Gentiloni noi possiamo solamente interpretare quello che si sta dicendo, insomma le indiscrezioni che si fanno anche un po' uscire i commissari, si andrebbe quindi verso un pacchetto da 1.000 miliardi, 500 probabilmente saranno di fatto la proposta franco-tedesca, quindi 500 miliardi o su per giù di sovvenzioni a fondo perduto e 100 andrebbero all'Italia. Altri 500 miliardi. Probabilmente Gentiloni l'ha lasciato capire, sarebbero tra appunto crediti agevolati o prestiti, un po' come il MES se vogliamo, altri prestiti. Questi però tecnicamente li potremmo avere dal 2021 col nuovo bilancio europeo settennale, e la Commissione sta anche però lavorando affinché con una formula ponte una parte di questi soldi possa essere già anticipata quest'anno, ma qui siamo nell'ambito veramente al momento della, dell'ipotesi possibile ancora. Perché? Sì, perché sostanzialmente sono sì orfani di un alleato potente come la Germania, ma i paesi rigoristi, e quindi Austria, Danimarca, Svezia, un po' più defilata, e Olanda soprattutto, Olanda e Austria sono le più accanite, non vogliono sentir parlare di sovvenzioni e dicono sì, aumentiamo le garanzie che mettiamo a disposizione il bilancio comunitario, ma noi vogliamo solo sentir parlare i prestiti. È chiaro, dovranno cedere perché comunque hanno perso un alleato potente, ma poiché si vota all'unanimità il bilancio, basta anche solo l'Austria. E teniamo conto anche di un altro problema: abbiamo i paesi dell'est. I paesi dell'est sono molto problematici per noi perché finora hanno goduto di miliardi e miliardi di fondi europei che li hanno rimesso in piedi le loro economie. Non sono stati così bravi a migliorare le loro democrazie, Polonia e Ungheria purtroppo qualcosa insegnano, ma hanno ora paura che nel prossimo bilancio settennale europeo i loro preziosi fondi comunitari si vedano un po' vadano un po' a ridursi a favore di fondi o di prestiti o di, come speriamo, sovvenzioni a favore di paesi come Italia e Spagna che insomma sono state in pesantemente colpite. Sergio, siccome dobbiamo chiudere, qual è il prossimo appuntamento proprio in sintesi, una prossima tappa importante? Te ne lancio due: 27 maggio proposta alla Commissione Europea sul piano per la ripresa e 18-19 giugno vertice europeo per approvarlo. Non è detto che sarà quello risolutivo, forse ce ne vorrà un altro, ma comunque sono i due momenti chiave in cui si deciderà anche il destino dell'Europa e dell'Unione Europea. Speriamo bene. Grazie Sergio Nava. Ciao. Speriamo Sergio. Bene. Ciao. Ciao. Viabilità onorata quella. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Scrive un ascoltatore, sempre Roberto Giordano con voi: caro effetto notte, a chi tocca il reddito di emergenza e ci spiega le modalità per usufruirne, sfocerà nel reddito di cittadinanza? In realtà queste domande andrebbero fatte più a Sebastiano Barisoni e Focus Economia, quindi non sono così specializzata nel dettaglio su chi ha diritto o meno diritto, insomma, diciamo, è più generalista, ecco, effetto notte. Il monitoraggio è continuo perché monitoriamo le terapie intensive, le subintensive, i tamponi che si fanno ogni giorno, la tenuta della rete territoriale sanitaria, il lavoro straordinario che fanno i nostri medici, infermieri, più critici, e stiamo rafforzando la rete sanitaria e io sono sicuro che ora è pronta per reggere eventuali nuovi contagi. L'Italia ha sempre fatto dei piccoli passi, ma è sempre andata avanti, non siamo mai tornati indietro. La cosa importante ora è continuare a camminare in questa nuova normalità, fino a quando non troveremo il vaccino, il miglior vaccino saremo noi con i nostri comportamenti. Lo ricorda il ministro degli affari regionali Boccia, che quindi sì, riaperture, siamo in questa tappa seconda della fase 2, però sempre con molta prudenza, anche se per esempio oggi il sindaco di Palermo, Luca Orlando, si è molto irritato per la movida che ha visto in alcune zone tipiche di Palermo con tanti ragazzi che facevano l'aperitivo, così anche il presidente della regione Sicilia, Musumeci, ha detto guardate che non voglio essere costretto a tornare indietro, ma se necessario richiudiamo tutto. Oggi poi il Viminale ha detto nei parchi ci vuole emanato alcune circolari in cui per esempio ha ricordato che nei parchi ci vuole un rigoroso divieto di assembramento. Ma torna per noi Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Dottor Lacquaniti, bentornato. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie. Quindi se dovesse fare un po' un bilancio di questi giorni di ripartenza, di segnalazioni che ha avuto, di controlli eccetera, tra l'altro i controlli sono diventati più stringenti a proposito degli assembramenti, anche se lo sono sempre stati, ma insomma qui visto che si ricomincia a circolare, Lacquaniti. Diciamo che va bene ma non benissimo, nel senso che non solo in Sicilia ma anche in Veneto dove io mi trovo il presidente Zaia si è lamentato anche lui di assembramenti e di movida. La sensazione purtroppo dalle segnalazioni che abbiamo è che questa seconda fase o seconda fase bis, come la vogliamo chiamare, è stata letta un po' con forse troppa euforia, soprattutto negli esercizi pubblici. La presenza e la vicinanza di diversi avventori ci sta dando qualche problemino che cerchiamo di affrontare come abbiamo tentato di fare nella seconda fase con buon senso, invitando le persone a rispettare le distanze. La stragrande maggioranza poi comprende di essersi forse lasciata andare, in qualche caso mi hanno segnalato qualche problema in più e lì ovviamente si risponde non solo della sanzione ormai arcinota del reato amministrativo, ma ovviamente nel momento in cui ci si oppone con violenza o resistenza ci sono anche aspetti di carattere penale. Ma questa è la Lacquaniti per gli avventori o per ristoratori, baristi e insomma proprietari del locale? Allora la sanzione ovviamente per chi non rispetta queste regole nel momento in cui dovessero essere non rispettate dai proprietari dei locali c'è la sospensione della licenza che può andare da 5 a 30 giorni. Diciamo che il fenomeno che ricorre di più è di prendersi da bere, in Veneto soprattutto, lo spritz e andare tutti insieme in comitiva ormai vicini e soprattutto anche senza mascherina ovviamente dovendo bere, è lì che è necessario mantenere la distanza, poi assieparsi sotto portici o sugli scalini. Cosa che non si deve fare nel modo più assoluto ancora. Giacomo da Ferrara dice si riapre tutto subito per chiare pressioni delle associazioni di categoria e poi ci si lamenta che la gente esca a prendere un po' di aria nei parchi con danno agli assembramenti, ma non è che se uno esce e si assembra può comprare per comprare va bene, se uno lo fa per stare insieme agli amici non va bene. No, in realtà giustamente le categorie adesso devono riaprire, stanno riaprendo perché sennò l'economia si affossa. Sta a ognuno di noi, come ci ha ricordato più volte non solo il Presidente del Consiglio Conte ma il Dottor Lacquaniti, la responsabilità di capire che certe regole vanno rispettate, perché sennò è peggio per tutti, a partire da noi. Stare attaccati agli altri e parlarsi addosso eccetera fa ripartire il contagio e dopodiché si chiude di nuovo tutto. Vedevo per esempio che giovedì torna la pizza, riaprono i ristoranti di Napoli, del lungomare, si aprono una festa, però anche lì chiaramente sta a tutti sapere che bisogna tenere le distanze, se si avvicini bisogna tenere le mascherine, giusto Lacquaniti? Assolutamente sì, la distanza, ricordato, non è necessaria, non è indispensabile per i conviventi, cioè per chi vive nella stessa casa. Ogni tanto qualcuno fa confusione dicendo ma noi tanto siamo parenti, però se sei parente e si vive in case diverse vale sempre l'obbligo di distanza. Per esempio anche seduti a un tavolino di un ristorante ho sentito che bisogna essere conviventi se si sta insieme al tavolino, al tavolo, altrimenti la distanza è inferiore al metro, e se non ci sono separè, cosa che quasi nessun locale comunque ha fatto, bisogna mantenere la distanza se la persona non è convivente con noi, questo assolutamente sì. Bene. Poi se mi permette un piccolo messaggio, visto che c'è sempre la polemica gli altri, ognuno deve fare il suo, perché l'esperienza ci sta dimostrando che noi siamo persone che normalmente si comportano in base a quello che fanno gli altri. Come vediamo gli altri che si assembrano, ci assembriamo anche noi, ci uniamo anche noi, pensiamo che sia tutto lecito. Ognuno deve fare la sua parte guardando il suo, anche perché la responsabilità amministrativa, come quella penale, è personale da questo punto Chiaro. Di vista. La quindi abbiamo ancora 30 secondi per ricordare che solo dal 3 giugno si può andare fuori regione, giusto? Assolutamente sì, qualcuno ha già strappato l'autocertificazione, ha fatto bene se pensa di rimanere nei confini regionali. Se esce dalla regione, ricordiamo che lo può fare solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, in quel caso deve essere ovviamente munito della famigerata autocertificazione. Chiarissimo. Grazie dottor Girolamo Laconiti, sempre prezioso. Grazie e buon lavoro. Buona serata, grazie. È giusto che in un momento in cui tutto il paese, tutti gli italiani hanno delle condizioni diverse di ripartenza e più diciamo leggere, sempre nella necessità però di fare tutti attenzione, è giusto che anche il mondo del calcio, che è un mondo estremamente importante come tutto il mondo dello sport, abbiano la possibilità di riprendere in sicurezza. Quindi caro Dario Ricci, il ministro dello sport Spadafora che abbiamo appena sentito ha detto che insomma, è vicina la ripartenza per il calcio italiano? Beh, adesso diciamo buonasera Roberta. Ciao Dario. Diciamo che si riparte con gli allenamenti collettivi, che vuol dire che si potranno fare, soprattutto insomma, i calciatori professionisti potranno ricominciare ad allenarsi insieme pur in piccoli gruppi e con tutte le misure di sicurezza, con un protocollo diciamo intermedio che farà sì, questo è un punto importante da chiarire, che in caso di una positività tutto il gruppo squadra sarà messo in quarantena, ma verrà isolato l'eventuale positivo e gli altri potranno continuare ad allenarsi. Poi molto probabilmente, e la prima data importante è quella del 28 maggio, quando si rivedranno i vertici del calcio col ministro Spadafora, i vertici della Federcalcio e della Lega, definiranno un protocollo che sarà molto simile a quello adottato in Germania, per cui si potrà giocare e eventuali positività, eventuali positivi nel gruppo squadra verranno confinati in autoisolamento. Insomma, si è andato verso un compromesso e la deliberazione di oggi va proprio in questo senso. Siamo in una fase intermedia, ma si può ricominciare con l'allenamento collettivo, con le misure che ho detto, e i giocatori hanno evitato anche quel ritiro permanente che effettivamente sarebbe stato molto pesante, visto che poi si sarebbe sommato anche al periodo successivo. Insomma, 3 mesi di ritiro è un po' difficile da gestire anche dal punto di vista psicologico. È un po' lunghetto. Chiudo Dario dicendo che Spadafora ha detto che poi da stasera ci sono linee guida per le palestre e i centri sportivi sul sito del Ministero dello Sport, no? Con tutte le indicazioni. Sì, infatti sono quelle che già erano state anticipate sostanzialmente in questi giorni, quindi davvero rinvio al sito ufficiale, perché chiaramente poi da regione a regione, se le linee guida sono le stesse, cambiano soprattutto i tempi, no? di apertura. È chiaro che anche in questo senso si va verso un tentativo di minimizzare il danno soprattutto economico per le palestre. Non immaginiamoci di tornare subito nella palestra che conoscevamo col corso di step tutti insieme con 30 Chiaro. persone, esattamente, però si cerca di ripartire. Beh, anche perché c'è bisogno di quella socialità che ci garantisce lo sport di base fatto insieme. Grazie, certo. Ciao Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao. Sentiamo tra pochissimo.